innanzitutto... donna, è vero che ne soffriamo di più noi? Assolutamente sì, direi 2-3 donne ogni uomo che viene colpito, quindi è molto frequente nel sesso femminile, colpisce le persone giovani, tra i 15 e i 30 anni è la fascia in cui si è colpiti maggiormente, ma la cosa più importante è questo, le persone non sono sole, chi soffre di panico non è solo perché oltre 1 milione di italiani sono colpiti da questo disturbo e addirittura fino a 5 milioni di persone hanno avuto l'esperienza di aver avuto degli attacchi di panico nella vita, quindi come vedete è veramente un'epidemia quasi, più che un disturbo singolo e nascosto. Le terapie sono terapie integrate, di solito noi abbiamo un problema perché siamo complessi e come tale dobbiamo affrontare il problema da vari punti di vista. È vero che i farmaci possono aiutare, è vero che le psicoterapie possono aiutare, è anche vero che ci sono tante pratiche riguardanti il nostro benessere che portano a un miglioramento globale della qualità di vita e quindi la possibilità di combattere meglio questi disturbi. Se noi siamo in grado 3 volte alla settimana di corricchiare, di fare una passeggiata, di andare in bicicletta, quindi di allenarci per mezz'ora, abbiamo uno strumento formidabile che ci aiuta a gestire e in qualche maniera parzialmente a prevenire il panico.